Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Pastificio Di Martino. Pasta di Gragnano da oltre 100 anni. Di Adriano Palazzolo. Dietro alla pasta di Gragnano ci sono oltre 500 anni di storia. Come tutte le storie, anche quella della famiglia Di Martino ha i suoi protagonisti. A partire dal capostipite di tre generazioni di pastai, Giuseppe Di Martino. A causa delle difficoltà economiche in cui versa la sua famiglia, Giuseppe incomincia ad apprendere i segreti di questa tradizione già da quando era ancora un bambino. Nel 1907, all'età di 10 anni, inizia a lavorare in un pastificio il cui proprietario non ha figli maschi a cui tramandare la sua esperienza. A raccontarci una storia che parte nei primi anni del Novecento è oggi il nipote di Giuseppe Di Martino, che porta lo stesso nome del nonno e che è attuale amministratore delegato del pastificio. Ah, mio nonno era un operaio del pastificio Di Martino e gli viene offerto di acquistare il pastificio Di Martino in quanto il titolare aveva tre figlie femmine. E diciamo che all'epoca il pastificio era un posto dove c'erano tanti uomini quasi nudi, dove la pasta si asciugava in queste camere molto umide, gli uomini erano vestiti da un sacco di juta e quindi non era un gran posto per avere tre giovani signorine a lavorare, e quindi era un posto duro dove si lavorava in maniera abbastanza fisica. E quindi il titolare dell'azienda intravide in mio nonno l'opportunità di avere un suo sostituto, quindi di qualcuno che potesse portare avanti l'attività senza che lo stabilimento chiudesse e che quindi gli operai si trovassero in mezzo alla strada. E lui offrì a mio nonno di comprare. Mio nonno comprò molto giovane lo stabilimento dove aveva lavorato per già 7-8 anni, perché era entrato a lavorare da piccolo, a 10 anni. E già a 13 anni, 14 anni, lui era uno molto responsabile ed era uno capace di mantenere un gruppo di persone, quindi veniva chiamato caporale della pasta fina. E allora a 18 anni gli fu garantito questo mutuo dal titolare e lui, diciamo, fece un management buyout all'epoca, con capitale garantito dal suo ex titolare, il quale rimase in azienda per il periodo che questo mutuo fu pagato e restituito. Quindi nel 1912 mio nonno era il titolare di un'azienda. La pasta viene consegnata in scatole di latta o più spesso in cassette di legno, con le quali viene anche esportata all'estero. Nel 1915 il pastificio Di Martino è il primo a passare il canale di Panama, perché i migranti italiani in America non rinunciano a un prodotto a loro così caro. Inoltre, l'ubicazione vicina al mare di Gragnano facilita il trasporto intercontinentale per via marittima. Qualche anno dopo, però, incombe in Italia il ventennio fascista. Mio nonno Giuseppe non era tanto d'accordo con il governo dell'epoca, per cui, diciamo, non era molto ben visto dall'amministrazione locale, tanto che gli fanno cambiare il nome da pastificio Di Martino a pastificio Impero, se voleva continuare a lavorare, e gli cambia il volto della donna che era dentro al nostro marchio, che era rappresentata mia nonna, le mette una donna ariana, bionda. Diciamo, lui non era tanto felice in quel periodo, e appena arrivarono la liberazione il 25 di aprile ricambiò il nome in pastificio Di Martino e la donna tornò una donna bruna tipica napoletana, che era un po' il nostro marchio. Quindi poi lui per un periodo dovette proprio andare via dal pastificio, perché fu considerato proprio un antifascista e quindi dovette nascondersi sulle montagne. Mio padre e mio zio mi raccontano della Seconda Guerra Mondiale, dei bombardamenti, perché Gragnano fu bombardata, e la razzia dei soldati tedeschi che andavano via in ritirata, che tiravano via tutto il cibo, e il mio padre e mio zio mi ricordavano che per più di una settimana loro dovettero, con cacciaviti e con pezzi di ferro, recuperare la pasta che si era fermata nelle assi del pavimento, perché quella era l'unica cosa, diciamo, sì, commestibile, quindi la dovevano bollire e mangiare quello, e per 10 giorni mangiarono solo quello perché non ci furono rifornimenti di materie prime, proprio perché i tedeschi nell'andar via si tirarono, portarono via tutto, portarono via il cibo, la razzia di qualsiasi cosa, la benzina, tutto quello che potevano fare per creare danni. Finita la guerra, Giuseppe, con al fianco alcuni dei suoi figli, modernizza i macchinari del ciclo produttivo. L'azienda cresce, così come i ragazzi. Il figlio Gaetano diventa responsabile della produzione, Valerio dell'amministrazione e Lucio del settore commerciale. I fasti del boom economico lasciano presto lo spazio ai disordini sociali degli anni 70. Fu una stagione molto dura di lotte sindacali a Gragnano, che era la città della pasta, dove c'erano più di 100 pastifici e ne sopravvissero pochissimi, tra cui noi, tra cui c'era la problematica seria, dove a un certo punto iniziarono problemi di boicottaggio, di grande danni alla produzione, di tipo veramente complicato. Da un lato noi avevamo un rapporto fantastico con i nostri dipendenti, perché erano i figli dei dipendenti che avevano lavorato per il nonno e così via, però c'era un movimento che andava al di là dei rapporti umani, dei rapporti personali, era un movimento che muoveva tutta l'Italia e che aveva base nella rivolta sindacale, in situazioni che andavano al di là delle aziende paternalistiche, erano più legate al fatto di una lotta all'interno di grandi aziende, che poi vedevano il riverbero di questi diritti anche nelle aziende più piccoline. Gragnano va in una situazione di blocco totale, le grandi aziende chiudono, le aziende più medie soffrono tantissimo e le aziende come la nostra devono fare da soli, per cui mio nonno, mio zio, mio padre prendono sempre più voli e dovranno cercare di trovare dei sistemi di ammodernamento e così via. Superato il periodo delle rivolte sindacali, per l'azienda arriva un altro momento difficile. Il terremoto dell'Irpinia nel 1980 colpisce anche Gragnano. Lo stabilimento del pastificio Di Martino rimane in piedi per miracolo, ma è gravemente danneggiato. Valerio Di Martino, insieme ai fratelli, decide di costruire a fianco un nuovo pastificio, antisismico e tecnologicamente avanzato, che triplica la produzione. Intanto arriva in azienda la terza generazione. L'innesto dentro alla produzione è stato da subito, perché da piccolo scartavo la pasta rotta dentro ai sacchi, giocavo agli indiani con i sacchi di semola, quindi diciamo sono sempre stato in pastificio io e mia sorella. E quindi diciamo mia sorella subito a 18 anni, presasi il diploma, iniziò a lavorare in pastificio, io andai all'università e quando ho finito l'università andai a vivere in Inghilterra per 2 anni e andai a lavorare per un'azienda che faceva intermediazioni alimentari in Inghilterra, e quello ha cambiato completamente il mio modo di pensare, di ragionare, di lavorare, con una grande esperienza di tradizione, amore profondo per il territorio e per le tradizioni di famiglia, ma con un'apertura mentale che era quello del mercato anglosassone, del mercato americano, che era fatto di facts and figures, no? Cioè quindi di numeri e di controprove di quello che si dice, legato poi magari all'estero, la creatività e la capacità che noi sappiamo essere italiana, e mi ha dato una spinta in più a conoscere e riorganizzare completamente l'azienda. Gli anni 2000 portano con sé la crisi economica del 2008. Proprio prima di questo periodo nero per l'economia mondiale, il pastificio Di Martino compie un'operazione di acquisto, incrociando nel suo cammino uno dei nomi protagonisti della crisi finanziaria mondiale. Il febbraio del 2008 acquistiamo le quote di una società di intermediazione, che è quella che ci rappresenta sul mercato inglese, da un'azienda con cui diventiamo soci, che è Lehman Brothers. E per convincere le banche a finanziarci questo investimento, io portai una copia del The Economist che diceva Lehman Brothers Strong Buy, che suggeriva acquisto forte di azioni Lehman Brothers, che dopo qualche mese diventa lo spazzatura e poi diventa la crisi del 2008. Però noi comprammo le quote di un'azienda di intermediazione, per cui era una situazione dove compravamo la way to market, no? Cioè quindi non compravamo azioni finanziarie, compravamo una società di intermediazione che per puro caso era nel portafoglio di Lehman Brothers, che si stavano liquidando per fare cassa. E quindi di fondo noi ci trovavamo in quella situazione e acquistammo quell'azienda. Il 2008 fu un'annata difficile, proprio perché ci esponemmo con un ulteriore investimento in un momento in cui c'era una crisi finanziaria. Però il nostro profitto e perdita era buono, per cui dimostrammo di poter tirarci fuori anche da quella sabbia mobile e ne siamo usciti fortissimi, perché poi quell'investimento è stato determinante per lo sviluppo, perché quel mercato, il mercato inglese, è diventato il nostro mercato di riferimento, dove abbiamo una quota di maggioranza assoluta di quel mercato. Il mercato inglese è solo uno dei tanti paesi dove è presente l'azienda, che deve il 60% del suo fatturato, che l'anno scorso è stato di 120 milioni di euro, proprio all'export. Nel 2013, grazie al lavoro di diverse aziende della città, tra cui il pastificio Di Martino, la pasta di Gragnano ottiene l'indicazione geografica protetta e quest'anno Giuseppe Di Martino, voce narrante di questa storia, ha assunto il mandato di presidente del consorzio di tutela. Questo impegno si unisce a quello per la sua azienda, dove è attesa la quarta generazione della famiglia. Mia sorella e io abbiamo 4 figli maschi, 2 e 2. Sono da 13 ai 18 anni, sono tutti quanti che in qualche maniera hanno avuto a che fare con la pasta. O qualcuno che è andato un po' in produzione per farsi qualche turno per pagarsi la motocicletta, qualcun altro che per pagarsi le vacanze, per comprarsi una qualsiasi cosa, ha fatto qualche fiera dell'estero con me, di vendite. Quindi stiamo costruendo uno spazio molto grande dove potersi esprimere. E per la famiglia è un'opportunità. Non è detto che la faranno, non è detto che debbano farla, per noi è un'opportunità, speriamo che la seguano. E se la seguono noi ne saremo felicissimi, perché significa metterci in condizioni di proseguire un investimento, ma anche un progetto di sacrificio fatto da 3 generazioni, da oltre 100 anni. Avete ascoltato Voci d'Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.